in primo piano. Siamo al 3 giugno, giovedì, e quando si arriva dal 2 giugno le notizie sono un po' povere, quindi diversificate. Ma oggi i giornali regalano in realtà grandi cose, secondo me. Tagli nuovi per 600 milioni, così è l'apertura del Sole 24 Ore, dunque ci si concentra sulla manovra, una novità scovata dal Sole. Manovra anti-Tremonti, anche per Libero. Qui è la vicenda Berlusconi-Tremonti, rapporti politici, oggi molto sviluppati sui giornali. Chi come Repubblica apre sulla legge Bavaglio, il PDL tratta, è la legge sulle intercettazioni. La Stampa invece, 2 giugno, gelo tra Colle e Lega. E così il Messaggero, la Lega diserta la parata. È un tema che ogni 365 giorni si ripropone, la Lega che non va alla parata del 2 giugno. Inchiesta su Israele, no dell'Italia, questa è l'apertura del Corriere. Per il fatto Di Pietro, spiegaci tutto, la vicenda della casa di Pietro, anche questa la vedremo. Ma come detto, io inizierei dalla vicenda politica. Dobbiamo fare un passo indietro, è stato un po' anche qui annullato dalla festività eccetera, ma l'intervento del presidente Berlusconi in diretta a Ballarò martedì scorso è ancora il centro dell'agone politico, perché ci si chiede: ma perché veramente Berlusconi è intervenuto? Forse, se leggiamo pagina 13 del Corriere della Sera, Francesco Verderami, sempre molto attento ai retroscena della politica, il capo del governo incontra Tremonti. Numeri e politica sono cose diverse. Un conto sono i numeri, un conto la politica. Può apparire una banalità detta così, ma se Berlusconi pronuncia questa frase al vertice del PDL dopo aver incontrato Tremonti, le cose cambiano. Il cavaliere intende riprendersi ciò che si riteneva avesse perso, gli fosse stato tolto, cioè il ruolo guida del governo, anche sulla politica economica. Ecco perché, scrive Francesco Verderami, gli strali del cavaliere sull'intervento a Ballarò avevano un destinatario chiaro: Tremonti, colpevole agli occhi del Premier di non averlo protetto adeguatamente alle critiche e soprattutto non averlo difeso dalle accuse di istigazione all'evasione che c'erano in trasmissione. Ecco che quindi Francesco Verderami dice: il destinatario, il motivo che ha spinto veramente Berlusconi ad alzare il telefono e dire fatemi intervenire a Ballarò era la presenza di Tremonti in onda e che non l'avrebbe difeso in maniera molto molto decisa. Infatti voglio andare proprio su Libero. Manovra anti Tremonti, questo è il titolo di apertura di Libero. Il PDL studia un blitz alla Camera, colpi di emendamenti, spera nel cavaliere, ed ecco il sottotitolo: Silvio ha telefonato a Ballarò perché è irritato con Giulio che non lo difendeva. C'è Fausto Carioti in prima pagina su Libero che titola così il suo commento: manovra per arginare Tremonti. Questo a dire, ieri anche Libero proprio raccontava questo retroscena, questa scena nella quale Berlusconi avrebbe detto non mi fido più di Tremonti. È nel momento in cui sembra essere diventato l'uomo più potente d'Italia che si scopre quanto è fragile Giulio Tremonti, scrive Fausto Carioti su Libero. Il titolare dell'economia ha scritto la manovra da 25 miliardi passando coi propri cingoli sui piedi degli altri ministri, è la superstar del governo. Il Corriere della Sera gli ha appena riservato una di quelle interviste molto lunghe e poco leggibili. Le trasmissioni di sinistra fanno a gara per invitarlo, un tripudio, eppure mai come adesso Tremonti è inviso alla maggioranza e ai colleghi di governo. Insomma, un rapporto Berlusconi-Tremonti non molto buono, tanto che anche Franco Bechis, sempre sul Libero, dice: ecco quali sono le mosse del cavaliere per avere più poteri, cioè arginare Fini, gestire in prima persona l'impianto della manovra finanziaria e presentare una riforma dei poteri dello Stato. Anche La Stampa punta su questo. Pagina 12, Ugo Magri, altro notista di politica: porto io la manovra in aula. Io è Silvio Berlusconi, che vorrebbe così riprendere in mano le redini del governo anche dal punto di vista della politica economica, redini che qualcuno dice sono passate appunto per qualche giorno in mano a Giulio Tremonti, che diventa un po' la star politica con la manovra finanziaria degli ultimi giorni. Altro termometro di rapporti politici che secondo i giornali, secondo i vari giornali in maniera trasversale non sono per nulla buoni, sono quelli, è il termometro che registra la temperatura dei rapporti tra Berlusconi e Fini. Tanto che addirittura il Cavaliere tratta solo col Quirinale, Fini vuole tradire, arriverò alla conta, questo pagina 3 di Repubblica, Liana Milella, ovviamente lo scontro è soprattutto sulla legge e sulle intercettazioni, con il Presidente della Camera Fini che dice io su questo disegno di legge non mollo, sulla legalità non mollo, e Berlusconi che avrebbe detto su questo, questo è un tradimento. Addirittura che cosa è successo? Che ieri un finiano, tale Briguglio, onorevole Briguglio, su Generazione Italia ha scritto questo: un nuovo governo e un nuovo partito. Il governo Berlusconi è vecchio, il PDL sembra un pezzo d'antiquariato. O una dichiarazione che viene da un onorevole vicino a Fini, tanto che già dall'altra parte un Mario Valducci, responsabile degli enti locali del partito molto vicino a Berlusconi, ha detto è una dichiarazione che va nella direzione dello scontro. Qualcuno ha già segnato la data dove potrebbe esserci qualche problema, e è sempre Libero, la voglio leggere, la evidenzia: martedì prossimo l'ufficio di presidenza del PDL, sentite Libero come titola, il Cavaliere organizza il processo a Fini. Questo succederà secondo Salvatore Dama, i dissidenti si accodano oppure sono fuori. La democrazia, bellezza. Staremo a vedere, c'è anche una foto che proprio Libero mette con Fini che stringe la mano a D'Alema, qua la mano compagno Gianfranco. Allora, l'altro tema politico, come detto, in realtà è un tema politico che si ripropone ogni anno, no? In questa parata del 2 giugno la Lega non c'era, esponenti della Lega, diciamo esponenti di primo piano, cioè il ministro Maroni, per esempio, il ministro dell'interno, non era alla parata ai Fori Imperiali il 2 giugno a Roma, era a Varese, tanto che Napolitano, gelo di Napolitano, secondo il Messaggero, Maroni, chiedete a lui perché non è venuto. La polemica è una polemica, per la verità, che dura lo spazio di un giorno. Mario Aiello sul Messaggero fa anche tutto un corsivo, la Lega e il federalismo ridotto a barzelletta, mentre era atteso a Roma, in qualche modo Maroni era a Varese, dove invece dell'inno di Mameli è stata suonata che cosa? La gatta di Gino Paoli, questo al posto dell'inno di Mameli, e anche Con te partirò di Andrea Bocelli. Maroni a Varese, cerimonia senza inno, titola pagina 15 il Corriere. Maroni che dice ma non vedo le polemiche, da 3 anni festeggio qui. La prefettura che dice Mameli non era previsto, come il 2 giugno non era previsto Mameli, questo l'ha detto la prefettura. Al suo posto Gino Paoli, la gatta, e Bocelli, Con te partirò. E poi il 2 giugno viene sempre raccontato dalle foto che immortalano il Presidente del Consiglio. È un gran classico. Sui giornali le trovate, il Corriere ne fa una carrellata e Il Fatto anche. Io già sorrido perché come fare a descrivervi una foto in radio? Non è molto facile, no? Ci proverò. Vabbè, ci sono le classiche foto, Berlusconi che sbadiglia, che fa le facce, che spia cosa sta leggendo su un foglio Napolitano, che mentre Napolitano gli parla lui manda dei messaggini sul cellulare, con tutta la faccia contrita lì a guardare il cielo. Ma c'è una foto spettacolare su tutte che trovate a pagina 15 del Corriere e a pagina 5 del Fatto. È Berlusconi che commenta con un'espressione facciale il passaggio di una croce rossina, e vi assicuro che è una croce rossina che si fa notare, e quell'espressione facciale con le mani è come dire però che croce rossina, che sta passando. Questa è la foto del 2 giugno che più fa strappare sorrisi. Un Berlusconi ben contento di vedere questa bella croce rossina che sta sfilando sotto il palco. Il ministro va a Varese, ma dov'è il problema? Anche sulla stampa, questo è il tema politico che troverete oggi sui giornali. Domani più, domani non ci sarà più niente. Al prossimo 2 giugno, tra un anno, nel 2011. Compenso zero per CDA e collegi, allora è la manovra. Io voglio andare al tema più economico. Come detto, il Sole 24 Ore apre su questa aspetto della manovra che Gianni Trovati commenta e che è stato scovato, è molto interessante. Si prevedono tagli per 600 milioni per l'anno prossimo e 570 milioni nel 2012. Da che cosa? Una sforbiciata del 10% ai budget dei ministeri deciso con la manovra correttiva, che porta i risparmi in termini di saldi netti a 2,4 miliardi nel 2011, 2,2 miliardi l'anno successivo. Un aspetto che però viene scovato, finora è rimasto un po' in sottofondo, è questo: compenso zero per i consigli di amministrazione e i collegi. Da questo mese la pubblica amministrazione, la galassia che le orbita attorno, sono destinate a popolarsi di volontari, scrive Gianni Trovati. Infatti, una svolta impressa nella manovra correttiva che trasforma in onorifiche, lasciando la possibilità reddituale di un gettone simbolico di 30 euro, tutte le cariche di una pletora di consigli di amministrazione, collegi dei sindaci, altri organi collegiali. Insomma, onori senza oneri. Previsti in tutti gli enti, anche privati, che a qualsiasi titolo ricevono una mano dalla finanza pubblica. Per esempio, quei 232 enti culturali ai quali erano stati tagliati, poi è saltata questa lista, i finanziamenti dallo Stato. Continueranno a esistere, ma chi siede nei loro consigli di amministrazione o comitati scientifici o collegi dei revisori dovrà farlo in molti casi gratis. E anche nelle società, insomma, tutte quelle società partecipate dalla pubblica amministrazione, si vuole fare un taglio a tutta questa pletora di persone che siedono in consiglio di amministrazione, magari fanno poco o nulla, ma hanno dei compensi molto alti. Verrebbe garantito solo un gettone di presenza. Ci sono anche dei commenti, per la verità abbastanza critici, un paio ne scova al Sole, sia di, per esempio, incredulo e cauto Angelo Casò, commercialista milanese, tra i vari incarichi è presidente del consiglio di gestione dell'organismo italiano di contabilità e anche nel CDA di Mediobanca, che resta perplesso, ma dice: ma come? Va bene norme severe, ma se si elimina il compenso a tout court mi pare un percorso sbagliato, inaccettabile e anche incostituzionale. Così come intervistata Raffaella Pagani, 39 anni, anche lei commercialista, con incarichi di sorveglianza anche alla SEA, per esempio. E dice: personalmente i miei incarichi sono stati recentemente rinnovati, dunque non credo che la norma sia retroattiva, ma comunque penso che sarebbe inapplicabile perché è in conflitto con le tariffe professionali. Come si fa? Io lavoro, non si può mettere in discussione ore di lavoro di professionisti. Ma certo, l'intento è quello, dare una sforbiciata ai compensi in consigli di amministrazione e collegi. Come l'intento, almeno quello di Calderoli, è dare una sforbiciata agli stipendi della RAI. Oh, questo è il tema del nostro sondaggio. A mamma RAI serve la dieta, inizia Calderoli, giù gli stipendi. È un gran classicone. Ho letto il titolo dal giornale: guadagni da Nababbi, Bruno Vespa 1.600.000, Fabio Fazio 2 milioni, Simone Ventura 1.200.000, che poi non so se sono veri. Floris ha detto che guadagna 400.000 euro lordi, ma non è più in Rai, è fuori. Per esempio, vedete, Fabio Fazio sul giornale sono 2 milioni, su Libero 1.060.000. Accidenti, cioè la busta paga da un giornale all'altro è già diminuita di 1 milione. Hanno già fatto un taglio alla Calderoli, dal giornale al Libero. Bruno Vespa 1.600.000 sul giornale, sul Libero non è citato quanto guadagna. Comunque Calderoli vuole abbassare, vuole togliere gli sprechi della RAI, tanto che la Padania titola proprio su questo: basta con gli stipendi d'oro in RAI, basta. Questo Calderoli sprecherai, pagina 2 e 3, ora si taglino gli stipendi della TV pubblica, oppure rivedremo il canone. Affitti regolari e vi spiego perché. A parlare Antonio Di Pietro, che è stato tirato in ballo dall'architetto Zampolini, il quale in un interrogatorio ha detto: anche Di Pietro è nella vicenda della cricca. Di Pietro, spiegaci tutto. Oggi Il Fatto apre così, giornale vicino sicuramente alle istanze di Di Pietro. E dunque Di Pietro, in questa intervista a Marco Lillo, rilasciata a Marco Lillo sul Fatto, affitti regolari, vi spiego perché. Non ho mai chiesto favori a Balducci e poi spiega tutto. Insomma, non ho mai preso in affitto appartamenti da propaganda fide, né per me né per mia figlia. Abbiamo chiesto affitto solo per la mia società, per il giornale che editavamo alla Editrice Mediterranea, che aveva già l'immobile in Via della Vite, in affitto. Non abbiamo mai avuto niente a che fare con propaganda fide. Per l'altro affitto invece di una casa per sua figlia. Mia figlia pensava di venire a studiare alla LUIS di Roma, poi è andata a Milano. Io chiesi a Stefano Pedica di Roma, coordinatore dell'IDV del Lazio, di aiutarmi a trovare un appartamento. Me ne propose 3 o 4. Mia figlia poi ha cambiato idea e è andata a Milano e allora abbiamo tenuto la casa segnalata da Pedica e ci è andata a vivere Silvana Mura, deputato dell'Italia dei Valori. Paga 2.000 euro al mese, non ci vedo nulla di male, un canone che non è un affitto da privilegiati. Insomma, Di Pietro si difende così. Su Repubblica fa anche un'altra intervista e dice: non mi fermeranno, so delle cose, le dirò ai magistrati. C'è anche questa cosa, Di Pietro dice: non vi pare strano che questo Zampolini non dice nulla, poi dopo 4 giorni non sa, gli viene in mente e tira in ballo anche me, cos'è che ha cambiato idea? Per Libero invece la vicenda è questa: Tonino era moroso e dunque è stato sfrattato dal Vaticano, cioè in uno di questi due appartamenti dove c'era il quotidiano d'Italia dei Valori, siccome non pagava, l'Italia dei Valori è stata sfrattata, mentre il giornale Quanti buchi neri nella vita di Di Pietro, a pagina 3, la carriera costellata di misteri, la laurea, il concorso, i soldi, le case del partito, le frequentazioni con boss italiani e stranieri, gli strani rapporti col mondo dei servizi segreti, insomma è un Antonio Di Pietro sicuramente sotto tiro. Con anche tra l'altro Stefano Pedica, che è quello il responsabile dell'Italia dei Valori nel Lazio o a Roma, che in un'intervista al Riformista dice: sì, ebbene, le ho procurate io le case, e allora mio zio era il compianto Monsignor Pedica, di cui mi onoro di portare il cognome. Mia zia era madre badessa del convento di Rossano Calabro. È colpa mia se vengo da una famiglia molto legata alla Chiesa, se ho legami con Propaganda Fide. Propaganda Fide mica è un'associazione a delinquere. Io faccio una vita da cattolico, vado a messa e quando capita frequento con entusiasmo il Vaticano. E poi dice: Zampolini ha raccontato un sacco di frottole, è tutto pulito, basta guardare i conti correnti, Silvana Mura paga 2.000 euro al mese di canone, insomma spiega la vicenda come l'ha spiegata Di Pietro sostanzialmente. Bertolaso anche lui si difende: questa è macelleria mediatica, macelleria dalla macelleria sociale alla macelleria mediatica, macelleria sembra il nuovo termine in voga. La casa in Via Giulia a Roma mi fu prestata da un amico, non da Zampolini, ma dice Bertolaso: non vi dirò mai chi è questo amico, lo dirò ai magistrati che se vorranno sentirmi, e questo amico è pronto a confermare, ma non dirò mai per chi è, perché sennò entra nella macelleria mediatica. È un mio amico, anche se il proprietario della casa continua a confermare, a smentire Bertolaso, i soldi me li faceva avere l'architetto Zampolini. Oh, questo trovate sui giornali per la vicenda Casa e Potere, Case e Potere. Oh, non andrà ai mondiali, ma si è guadagnato dei gran bei titoli sui giornali il calciatore Marco Borriello, centravanti del Milan. Borriello che ha fatto un'intervista al mensile GQ e si è scagliato contro Saviano. L'accusa è quella solita: Saviano lucra sulla mia Napoli. Per me Saviano è uno che ha lucrato sulla mia città. Non c'era bisogno che scrivesse un libro per sapere cos'è la Camorra. Lui però ha detto solo cose brutte e si è dimenticato tutto il resto. L'anti-Saviano questa volta è Marco Borriello, ex Scugnizzo, nato e cresciuto a San Giovanni a Teduccio, orfano di padre ammazzato dalla Camorra, un episodio che lui nell'intervista ha definito uno spiacevole episodio, e che in questa intervista ha detto la Camorra, già 2 anni fa per la verità aveva detto la Camorra c'è sempre stata, sempre ci sarà, perché con la Camorra la gente ci mangia. Per me non c'è bisogno di libri o di film per capire qual è la situazione, io per quelle strade ho vissuto. Lucra sulla mia Napoli, Anche sul giornale sfregio a Gomorra, Napoli si rivolta contro l'eroe Saviano, un calciatore Borriello e poi c'è anche un jazzista, Sepe, attaccano il più inattaccabile degli scrittori, c'è anche questo jazzista Sepe che gli ha detto, ha dedicato una canzone nella quale in versi napoletani che non oso ripetere per la mia pronuncia pessima sarebbe, l'ha accusato di essere in qualche modo manovrato come un burattino Saviano. E vabbè, insomma, anche Marco Borriello attacca Roberto Saviano. Siamo alle segnalazioni conclusive. Voglio segnalare che se volete iscrivervi all'asta per acquistare un immobile a base d'asta 126.000 euro, 62 metri quadri, più 14 del box lavanderia, in più anche in vendita in quest'asta c'è anche un camper più una macchina. Quest'asta è a fine settembre, base d'asta appunto di questo immobile 62 metri quadrati più 14 il box lavanderia, piano terra in corte in via Diaz a Erba, potete farlo. È l'edificio dei coniugi Castagna, quelli che sono, scusate, i coniugi Romano, quelli che sono in carcere per la strage di Erba. Scatta la corsa per aggiudicarsi la casa della strage di Erba. L'asta diabolica, la definisce il quotidiano nazionale, asta alla quale si sono iscritte 3 persone per il momento. Tutti i proventi di quest'asta andranno a Frigerio. Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto a questa strage. A quest'asta è riuscita ad arrivare l'avvocato di Mario Frigerio che ha fatto sequestrare tutti i beni. Infine, voglio fare l'ultima citazione perché è una bella sparata del boss della Ryanair, O'Leary, quello che non ha mai peli sulla lingua, no? Dice le cose come stanno. Il boss di Ryanair, sapete come ha detto, come ha definito i passeggeri che chiedono i danni per il vulcano Ejafjallajökull, quello che ha tenuto a terra milioni di passeggeri? Dei bastardi che hanno speso 30 sterline per il volo e ora ne chiedono 3.000. Volete il rimborso Ryanair? Bastardi.